Buonasera amici, oggi vi presento Luigi Balocchi, un romanziere di successo che ha pubblicato con case editrici di assoluto prestigio come Meridiano Zero e Mursia e al quale cedo subito la parola. Buonasera a tutti, sono Luigi Balocchi, ringrazio il mio amico Pietro Pancamo di avermi dato la possibilità di parlare un po' di ciò che faccio. Cosa faccio? Faccio letteratura da un po' di anni. Nel 2007 ho pubblicato con Meridiano Zero, che allora era una casa editrice di culto, insomma, di un certo genere noir, il romanzo Il diavolo custode. Meridiano Zero poi ha chiuso i battenti, io sono passato a Mursia, con cui ho pubblicato nel 2010 Un cattivo maestro. Nel 2014 con la casa editrice fiorentina piccola ma promettente, la Gower, ho pubblicato Il morso del lupo. Nel frattempo ho pubblicato con Punta Capo Editrice la raccolta poetica Atti di devozione. Cos'è la letteratura? La letteratura è tutto e niente. La letteratura è la rana, la biscia, animali biblici e demoniaci per definizione, la rana e la biscia che ti saltano fuori, ti procurano dolore, ma ti liberano anche. La letteratura è il cercare di liberarsi dai nostri incubi, dalle nostre angosce. E credo che questo sia poi in definitiva tutto ciò che mi serve. Dunque la letteratura come metodo infallibile per liberarci dai mostri che abbiamo dentro. Però Luigi ha accennato anche alla sua raccolta di versi Atti di devozione. Quindi gli domandiamo, Luigi, la poesia che cos'è per te? Parlare di poesia è qualcosa di molto difficile, innanzitutto personale. Io credo che davanti a qualsiasi letteratura poetica noi dobbiamo essere ciechi e sordi. Sì, ciechi e sordi, perché per giungere alla poesia bisogna seguire un'altra strada, che non sia quella della vista e quella dell'udito. Bisogna giungere alla poesia attraverso altri sensi, un altro senso forse. Quindi chiudiamo gli occhi e tappiamoci le orecchie. Se la poesia è bella, ci giungerà comunque, attraverso quel senso sottile che penetra ogni poro della pelle. Come lo vogliamo chiamare? Sensazione, emozione. E da lì tonferà nel cuore. Se esploderà in un disastro appunto d'emozione, bene, allora quella sarà una bella poesia, altrimenti no. Io, per quanto mi riguarda, voglio una poesia lazzara, stracciona, una poesia che sorpassi con gesto sportivo, la trincea ordinata dei pensieri, una poesia che parli al corpo, che sia umore materico del corpo. Certo, la parola in sé è un limite, la parola è un limite, e troppe parole sono una diga. E al di là di questa diga munghia il fiume dell'inconscio, ed è proprio lì, nelle correnti profonde dell'inconscio, che troviamo forse la poesia. E un tale linguaggio, il linguaggio poetico, non può altro essere che quello del visionario, del mistico. La poesia è essenzialmente un linguaggio religioso che unisce in sé gli abissi dell'intuito e dell'ispirazione alla concreta visibilità dello scritto. Ispirazione e parola formano il corpo vibrante della poesia. Come sarà questo corpo? Ci si può saziare anche di dubbi, certo sì, anche di dolore. Ci si può crogiolare nella propria inappartenenza, oppure al contrario ringhiare contro il mondo avverso. Di solito questa è la poesia che fa i conti con la filosofia, che tenta di esprimere una data visione del mondo, ed è la brutta poesia per me. Il corpo della poesia deve essere essenziale, il muscolo asciutto, i nervi a fior di pelle. Deve essere impeto vitale, abbandono a un destino di trapasso, di morte. E nel linguaggio di quel corpo, appunto, essenziale è la parola, che deve essere scarna, essenziale anch'essa. Nel linguaggio di quel corpo è la poesia, che a mio parere deve essere paratattica, assertiva. Linguaggio e parola a servizio di una poesia di natura esclamativa, non concettuale né filosofica, che non ha mezzi termini, che non si attardi a descrivere paesaggi triti e naturalistici, che se ne infischia anche delle figure retoriche date, insomma. Una poesia come atto rivoluzionario del sé, una poesia in breve del coito. Adesso, cari amici, ecco a voi alcune poesie di Luigi Balocchi tratte dalla siloge Atti di devozione. La bellezza. Come muovi le mani, ti siedi, accavalli le gambe, mi guardi, come appare sul tuo viso quell'onda, che sorriso, smorfia, graffia. Come chiudi gli occhi, li apri, ti tremano le labbra, sussurri, piangi, abbassi la testa, ti cerchi dentro. Il tuo fascino si cosparge di piccoli gesti. Non potrei mai fare l'amore con una statua, per contratto, perché sia una casa da portare avanti. Perché così si deve più o meno fare. Padronanza sessuale non mi appartiene. È la bellezza, il verbo incarnato. Deus absconditus. Cerchi nell'anima la comunione santa, quella carezza ineffabile, fonda, io finito e quell'immenso che geme ai confini, qui incarnato, qui sepolto, prima fonte. Il sesso è una via di redenzione. Tristia. Io ti accarezzo, accarezzo il viso che ho amato, ammiro l'ombra che lo vela, io superstite di questo amore che se n'è andato in un giorno qualunque, di una vita qualunque. Rex, è gloriosa la carezza. Penetra il sangue, vince i guardiani del cuore, lì fonda un regno, lì è un poverissimo re che non ha nulla, ha solo te. Corpus Domini, il mio corpo è una scheggia, il mio corpo è una preghiera, il mio corpo è muscoli e nervi, ossa, peste. Così io vengo a te, come un bambino salvato dal campo di sterminio, un ragazzo di strada, un rivoltoso, e ti porto questi occhi scuri, il viso segnato dalla guerra perduta, queste labbra nell'annunzio di un bacio che rubo alla notte. Sang Real. Lo sanno le tue sere, i silenzi, le crepe sulla pelle. Lo sai il ricordo, l'eco che rimesta gli istanti in cui davvero qualcuno ti ha abbracciata. A te lo stringevi, tuo angelo carnale, la lama nella notte, il sogno che ti entra. Dramma. Qualcosa che mi emozioni, e su questa mia faccia scarna, segnata, ponga un petalo di rosa. In verità, anima mia, sono sempre rimasto qui, ad ascoltarti, amarti, per quel che di amore riesco. Io così povero, girovago, tetrante, io non posso far altro che tenerti qui. Qui dove il dramma si risolve in una battuta, un bacio, un gesto improvviso, per un attimo solo, un tonfo, un incanto. Ruina. Ed eccoti qui, tra le mie mani. Non credevo potesse ancora accadere. Avevi un corpo, tu. Ora sei di pezza, sei una bambola rotta, polvere sulle labbra, gli occhi di paglia. Dove sia il cuore non so più, saperlo conta niente. Siamo entrati l'uno nell'altro, questo sì, distratti, abbiamo attraversato le nostre rovine. I viaggi di Gulliver. Sono stato nelle migliori camere d'albergo, ho dormito nelle stazioni, ho frequentato gente di lusso, starnutito nello stesso fazzoletto con i barboni. Tutte belle le mie donne, mogli d'alte, graziose cortigiane. E ho aperto le mani, abbracciato, senza paura, senza giudizio. Grazie della vita io ti ho voluto incontrare, chiunque tu sia. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.